è successo che all'improvviso i lavoratori hanno ricevuto una lettera di licenziamento senza preavviso, come regalo di Natale, senza ulteriori informazioni. Noi abbiamo avuto un incontro, tra l'altro anche ieri, con l'assessore alla mobilità di Bologna per chiarire questa faccenda che ha dell'incredibile. Questo parcheggio Danari, che come molti sapranno è un parcheggio scambiatore, cioè fa parte proprio del piano mobilità, cioè la gente parcheggia sia cittadini che fuori di città, e poi c'è tramite un sistema di abbonamento, quello è un parcheggio diciamo convenzionato, per cui c'è anche la navetta che collega col centro, quindi come dire non è un parcheggio qualsiasi, è uno dei parcheggi che serve appunto per cercare di gestire al meglio la mobilità, cercare di ridurre il traffico auto nella nostra città. Questo enorme spazio dedicato a questo tipo di servizio è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, però da moltissimi anni era in concessione al Comune di Bologna. All'improvviso il gruppo FS ha deciso di non, a fronte di incontri che c'erano stati, per cui non si prospettava assolutamente questa chiusura, non c'è più la concessione al Comune di Bologna. Il gruppo FS ha ripreso in carico lo spazio, non lo sta gestendo, cioè si è abbandonato, vuoto, è un posto abbandonato ora, e i lavoratori sono stati prima messi diciamo in aspetto di aspettativa e poi licenziati. Ovviamente come organizzazione sindacale abbiamo impugnato i licenziamenti, perché quel parcheggio è gestito tramite appalto, però al di là della questione dei licenziamenti, sui quali chiaramente ci siamo mossi, quello che ci stupisce in senso negativo è questo scontro, chiamiamolo così, tra amministrazione comunale e Ferrovie dello Stato per la gestione di questo parcheggio. Abbiamo sottolineato che ovviamente quella è una zona molto attenzionata alla speculazione, no? C'è tutto il progetto dell'amministrazione comunale di farne un grande spazio, no? Insomma, avete letto anche i piani che ci sono sul Ravone, e il parcheggio Danari è attivo, quindi noi immaginiamo che ci possa essere di qualche appetito per la gestione di quello spazio. Noi ovviamente siamo contro ogni ipotesi di modifica della destinazione d'uso, ovviamente. Stiamo cercando di capire le tempistiche e anche volontà del gruppo FS, però non è facile, perché il gruppo FS è famoso per la sua impermeabilità rispetto alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è un altro caso. Noi abbiamo detto che al di là della questione dei licenziamenti non può esserci se non un ritorno alla gestione di un parcheggio, che sia del comune, con le modalità diciamo per facilitare il suo ruolo di parcheggio scambiatore. Ecco, noi abbiamo 3.000 dubbi sul fatto che le FS abbiano la stessa attenzione a un piano di mobilità sostenibile, e quindi se le cose vanno male, quello è un altro posto abbandonato al degrado, come si usa dire oggi, completamente svuotato, per cui già oggi abbiamo visto, facendo una ricognizione, che sta diventando specie di Montezzale. Tra l'altro vicino c'è anche la discarica, vuol dire un luogo dell'era dove vanno i lavoratori a gestire tutta la serie di mezzi. E quindi abbiamo a che fare con licenziamenti, un'area in disuso, l'assenza di un servizio che prima c'era, che ora non c'è più, quindi questa roba qua è l'ennesima dimostrazione che qui in questo territorio ormai si sta andando avanti con azioni e comportamenti che sono al di fuori dell'utilità collettiva.